Aftab Rat Kirani, che appunto era un pezzo tratto dal suo ultimo album uscito l'anno scorso, Night Rain. È un aneddoto molto divertente, insomma, che raccontava, siccome lei è molto comunicativa durante il concerto, quindi anche molto divertente, insomma, è una che non si prende tanto sul serio e scherza molto con il pubblico. Questo lei diceva molte persone immagino, non capendo i testi compongo le mie musiche, spesso pensano che abbia questa, no, tutta questa vena spirituale, che canti di cose sacre. In realtà no, cioè canta di un sacco di cose abbastanza, diciamo, proprio terra terra, o comunque insomma cose che ci succedono nella vita abbastanza comuni. Questa canzone in particolare, che si intitola Regina della Notte, racconta, lei diceva, di fondamentalmente quando succede che sei in una situazione sociale e crei, diciamo, una connessione, un contatto, un po' anche una seduzione con una persona sconosciuta, e poi torni a casa dalla persona che ami. Ecco. Accade, non fate finta di no, perché succede un sacco di volte, però vabbè, ci sta, infatti. Uno può avere quel momento della serata, poi si chiude là. È molto figa, insomma, l'esibizione live, quindi vi consigliamo, se avete la possibilità, di vederla. Stasera suonava a Milano, tra l'altro, quindi insomma chi è da quelle parti magari all'ultimo forse troverà posto per andarla a sentire, e in generale era in tour, insomma, in vari posti in Europa, quindi magari se siete in giro noi ve la consigliamo. Noi ve la consigliamo, come ve l'avevamo consigliata in realtà tantissimo tempo fa, perché è stata, e oggi stasera abbiamo due protagoniste della nostra prima delle nostre prime scalette, vabbè, una della nostra prima scaletta in assoluto, non vedo l'ora di risentirle. Comunque lei l'abbiamo messa nella puntata numero 8, quindi proprio tanti anni fa, 4 anni fa, col suo disco precedente che si chiamava Vulture Prince, che era il suo terzo disco, è uscito nel 2021. Poi quell'anno lì in realtà ha firmato per la Verve, che è l'etichetta, sì, con cui è uscito anche questo suo ultimo disco. E l'anno scorso, tra le mille cose, ci siamo colpevolmente persi, perché in realtà è un disco molto bello, bellissimo. Sì, in realtà mi sa che l'avevamo sentita con una collaborazione con Moon Mother, quindi sì, insomma, in qualche modo l'avevamo già riascoltata e l'abbiamo un po' messa perché, da parte. Perché in questo disco c'è anche Moon Mother, c'è anche una chitarrista bravissima che non abbiamo passato qui perché non so se ancora non ci sono dischi in giro, ultimo non abbiamo, ci abbiamo fatto caso, che è Kaki King, che però è una strumentista molto molto forte con la chitarra, che ha un modo di suonarla molto particolare, molto peculiare. Quindi c'è anche lei in questo disco, che ha suonato tante volte in Italia, tra l'altro. Sì, ha suonato tante volte. In generale lei ha questa, diciamo, bella attitudine che a noi piace sempre, cioè di creare tante collaborazioni, quindi insomma, e di dare la sua musica, le sue scritture ad altre musiciste e musicisti per, insomma, per poi suonare insieme, quindi è molto molto collaborativa anche. La lingua che in cui canta principalmente, ma non solo, nei suoi lavori è l'urdu, che è la lingua ufficiale del Pakistan, che come avete sentito ha delle sonorità anche molto vicine all'indiano, all'hindi. Probabilmente loro direbbero assolutamente di no, ma perché non si sa mai la vicinanza tra i due paesi. Lei, ci sono cose interessanti, andate a cercare anche i video delle canzoni, anche questo di questa canzone girato da Tessa Thompson in bianco e nero, insomma, queer, molto, molto queer. Quindi andate ad ascoltarla e a scoprirla. Quindi insomma il nostro consiglio iniziale di oggi è questo. Il prossimo pezzo, cambiamo registro, loro sono Scowl Special. Special tratto dall'album We Are All Angels, uscito per la Dead Oceans il 4 aprile scorso, giusto? Ho visto aprile. Vabbè, ok. Allora, Scowl, che sono passate da queste parti già. Noi ci piace, insomma, il loro spirito hardcore, per non purista hardcore, ovviamente chi le puriste del genere storceranno. Ma loro se lo rivendono, dicono con orgoglio di non essere puriste, ma anzi di avere questa vena abbastanza melodica, che me le fa ascoltare anche a me, incredibilmente, perché sennò con l'hardcore avrei qualche problema in più. Sì, più soft. Devo dire che questo album a me non è non mi ha fatto impazzire proprio tantissimo. Mi era piaciuto di più il loro album di esordio, How Flowers Grow, che ormai risale a 4 anni fa, con cui appunto le avevamo apprezzate. Kat Moss, devo dire, gliela molla sempre, voce di questa band, e diciamo che si sono spostate un po' sullo stile che fa pensare un po' all'L7, no? A quello stile, sì, lì un po' più anni 90, fine anni 80, inizio anni 90. Guarda, forse il rischio che c'è quando provi a fare queste sonorità un po' ibride, no? Un po' pop, mm-hmm, melodico e color core, che magari appunto poi perdi un po' di identità, forse anche di forza. Però l'album è piacevole, noi l'avevamo anche ascoltato con l'EP Physic Dance Routine, che era uscito, yes, nel 2023, perché a un certo punto tra un disco e tra quel disco e questo disco del secondo sono usciti comunque diversi EP, quindi se volete andare un po' a esplorare la discografia ne avete di cose da ascoltare. Ma anche questa comunque una bella produzione, ci piace ripassarle per rifarvele ascoltare. È un album che parla di alienazione, di dolore, di perdita di controllo, e dice una cosa molto interessante lei, perché dice il controllo fa purtroppo parte dell'esperienza femminile nella musica rock, non solo, vero, direi, e in una scena piuttosto dominata dagli uomini. Devi essere sexy ma non troppo, perché da sgualdrina, devi essere forte e talentuosa ma non metterti troppo in mostra perché è imbarazzante da sfigata. Insomma, dice, quel lato del controllo ti incasina davvero e ti fa andare in giro per la stanza di continuo e ti fa pure incazzare, dice lei. E noi siamo super d'accordo con lei. Questa è Radio Onda Rossa, noi siamo Likewise, che vi intratteniamo ancora per una quarantina di minuti, credo. Vi ricordiamo, no, vogliamo salutare chi ci ascolta in streaming, ondarossa.info, insomma da dove vi pare, chi ci ascolta in DAB, in quel di Terni, in quel di Perugia e in quel di Roma anche, brava, fai bene a fare questi gesti che insomma ci indicano che anche a Roma potete ascoltarci in DAB. Provate le vostre radioline, cercate Onda Rossa. Esatto. E chi ci ascolta invece, compagne, compagno e compagni, private della loro libertà, insomma speriamo anche che per esempio in Perugia ne parlavamo con le compagne di Turba, che anche lì possano avere, perché non sempre è possibile, le radio per ascoltare Radio Onda Rossa e non solo, ma soprattutto Radio Onda Rossa sicuramente. Il terzo pezzo di oggi è un ritorno, mancavano da 15 direi. Anni direi, loro sono Stereolab, Aerial Troubles. Thank you. coda per questo Aerial Troubles, il primo singolo da questo prossimo album degli Stereolab che si intitolerà Instant Holograms on Metal Film, uscirà il prossimo 23 maggio per la Duophonic e la Warp. Una data che dovreste conoscere già a memoria, mi sa. Sì, perché ci sono un sacco di dischi che escono il 23 maggio. Ma che maggio. Dischi? C'è la festa della radio. Oltre alla festa della radio. Comincia la festa della radio. Comincia. Sotto qui a Via dei Volsci. 56 una festa spalmata. È una festa spalmata come piace a noi, più o meno 3 giorni tra musica e ma anche dibattiti, anche un po' di confronti. Cominciamo qua il 23 aspettando mezzanotte, perché vorrei vedere, porta pure male fare gli auguri prima. Il compleanno della radio è il 24 maggio, esatto. Ricordiamo, 24 maggio 1977, quindi gli anni sono già tantini. Se volete farci regalo invece potete già cominciare subito, proprio esatto. Adesso mentre stiamo parlando, basta che andate sul sito della radio, sopra sotto ascolta la diretta, sotto c'è un bel banner con il radio abbonamento di quest'anno, subito cliccateci subito. Sopra ecco. Su fatelo, fateci il regalo che ci aiutate a far vivere la radio, a pagare tutte le bollette dei vari a proposito, prima Dona elencava dub qui, dub lì, sì, però sono tutte le antenne e sono tutti i costi, esatto, più che dobbiamo che sostenere costano. esatto, quindi insomma il radioabbonamento va avanti, come sapete, magari avete anche ascoltato qualcuno degli spottini preparati per ricordarvelo, e secondo me insomma è una buona cosa da fare mentre ascoltate anche gli Likewise, Stereolab, no? Cioè, esatto. Tra una cosa e l'altra, mentre noi chiacchieriamo, vi raccontiamo due cose e voi andate e sottoscrivete. Esatto, che vogliamo dire di loro? Che possiamo dire degli Stereolab? Che già non. Ma una cosa che mi piacerebbe molto, insomma, invitarvi a fare è quello magari di andare a vedere il video che accompagna l'uscita di questo singolo. Insomma, non stiamo lì a raccontare la loro storia, ne abbiamo già parlato tante volte. Comunque, nota e diciamo conosciuta. Sicuramente è interessante guardare questa collaborazione con il pittore e fotografo francese Askenazy, che ha diciamo girato il video per questo pezzo, quello che abbiamo appena ascoltato, ed è una cosa abbastanza interessante. Sai che comunque i testi degli Stereolab negli anni comunque si sono sempre concentrati su un po', no, la critica anche all'alienazione della nostra contemporaneità, a insomma tutta una serie di argomenti che sono tipici della loro, anche un po' in maniera un po' astrusa, un po' cervellotica, un po' filosofica direbbe qualcuno, e non in senso positivo. Comunque il connubio con queste immagini che sono anche state in parte diciamo generate attraverso le foto dell'autore e l'interazione con l'intelligenza artificiale, che noi non amiamo affatto, ma viene fuori una cosa abbastanza particolare che rende l'idea di questa alienazione, di questa di quello che un po' il veicola questo possiamo pezzo. Dire anche molto precursori, perché hanno iniziato sì. a fare questi discorsi molto tempo prima, perché oggi forse c'è anche più chiaro vederla questo tipo di alienazione anche da diciamo tecnologie e cose varie, forse prima non era tanto chiaro. Letizia Sadie è passata l'anno scorso col suo disco solista, quindi tra la discografia degli Stereolab che hanno pubblicato, ripubblicato di tutto, perché sì. poi sono passati decennali, anniversari eccetera eccetera e quant'altro, potete tranquillamente aspettare il 23 maggio, penso non riuscirete neanche a finire di ascoltarla tutta, esatto. la discografia, no. aspettando questo nuovo disco che invece appunto uscirà tra un mesetto circa. Una cosa. Se sì. volete, però, saranno live in Italia 2 date quest'estate. Lo sapete che l'estate è un po' il momento in cui qualcuno viene in Italia. 10 giugno a Ferrara, per Ferrara sotto le stelle, che ancora lo fanno, pensavo di no. E l'11 luglio invece a Cagliari all'interno del Silent Festival. Io andrei in Sardegna, così ve lo dico. Cioè tra Ferrara e Sardegna, e la Sardegna Cagliari d'estate, cioè, è appunto, facile la scelta. Esatto. Quarto pezzo di oggi, loro si chiamano Clutter Jigs. Time to cut my hair. Butter Jigs, sicuramente questa settimana il loro EP ha ruotato nella mia playlist più e più volte. Questa giovanissima band svedese, poco più che ventenne, insomma stanno tra i 20 Stoccolmo. E i 21 anni. Comunque la Svezia mi stupisce sempre. È una fucina di cose, sono state, insomma, sono fatte le ossa questo, diciamo, in quest'anno passato in giro, in tour, praticamente hanno suonato dappertutto, hanno anche accompagnato in tour in Inghilterra le Heinz, che insomma nostre compagnelle anche loro, escono per la Punk Slime con questo appunto EP che vi dicevo che si chiama Loves You. Che dire, a me fanno pensare un sacco, loro citano spessissimo My Bloody Valentine nelle loro interviste, sì, insomma come fonte di ispirazione eccetera eccetera, ma a me fanno pensare un sacco a Boss Hogg. Non so se te li ricordi Boss Hogg. Certo che me li ricordo, quella band lei, frangetta, cioè, capelli neri, quel video in bianco e nero, come no, cioè non solo quello, vabbè, comunque, vabbè, in ogni caso era per dare delle coordinate, così tutte se lo sono ricordate, così la Martinez, la fantastica, sì, Martinez, tacchi, io tacco 12, 13, forse anche 15, tacco 12 e presenza scenica fantastica. Anche, diciamo, io poi l'ho vista insomma da più grande, nel senso che lei era più grande, insomma è rimasta una tipa molto molto figa e divertente. Sì, mi fanno pensare un po' a Boss Hogg, quelle sonorità un po' sporche, un po', diciamo, che strizzano l'occhio al punk, ma che c'è dentro anche del blues, del garage, insomma un po' di tutto. Molto carino questo EP, mi piace molto. Sì, loro è vero si definiscono così, infatti quando qualcuno gli ha chiesto come descrivereste il vostro sound a qualcuno che non ha mai ascoltato la vostra musica, allora rispondono: una collisione frontale tra i miei Bloody Valentine e qualche angosciante band indie locale. Così. Però non sappiamo come sono le angoscianti band locali di Stoccolma, quindi dovremmo fare prima un check. Probabilmente ubriache. Probabilmente. 19:31, state ascoltando Likewise, questa è Radio Onda Rossa dell'87.9. Siamo più o meno a metà della scaletta di questa sera. Cambiamo di nuovo registro, torniamo in qualche modo delle sonorità che ci avvicinano di più verso la musica jazz contemporanea. Lei si chiama Yaz Hamed, il pezzo è She Stands on the Shore. Thank you. Yes, Ahmed, She Stands on the Shore era il pezzo che tra l'altro è il pezzo di apertura di questo album che si intitola A Paradise in the Hold, uscito lo scorso 28 febbraio per la Nighttime Stories. La voce che accompagnava questo bellissimo pezzo di apertura appunto è di Natasha Atlas, una musicista egiziana belga che appunto generalmente fa hip hop nella sua produzione personale, che fonde appunto musica araba e occidentale. Yaz Ahmed non era mai passata alle nostre parti, come avete potuto sentire, trombettista e flicornista. Mi piace un sacco il flicorn, è molto bello. Tra l'altro, insomma, anche una nostra amica musicista, Ersilia Prosperi, che ogni tanto è stata ospite qui, suona il flicorno. È nata nel Bahrain e da mamma britannica, se non ricordo male, papà del Bahrain, o viceversa, non mi ricordo, mi sembra che la mamma è britannica. No, sì. Sì, il contrario. Forse no. Il contrario. Anyway, mix, esatto, di culture appunto araba e occidentale che convergono tutte nella sua musica. Esattamente. E questo disco in realtà è una lunga ricerca, nasce da un viaggio che Ahmed ha compiuto nel 2014 tornando in Bahrain per riscoprire le proprie radici musicali, quindi ha girato nei mercati di Manama, ha trovato vecchie registrazioni dei canti dei pescatori di perle, ha cercato libri di poesie che celebrano la bellezza attraverso la natura. È andata, infatti se vedete la copertina, tra parentesi le copertine dei suoi dischi sono molto bellissime, belle, vero? Comunque è andata all'incontro dei cerchi di percussioni collettive femminili, e lo dicevo per la copertina perché ci sono quattro, sì, figure di donne appunto con i tamburi in mano, e quindi lavora su queste esplorazioni ritmiche in questo disco che è il suo terzo album. In realtà è un artista che ha spaziato anche nella musica pop, diciamo più conosciuta, ha suonato con i Radiohead, ha suonato per Jonas a Police Woman, ha suonato con la band This New Puritans, ha suonato con gli Swing Out Sisters, insomma ha girato, ha suonato, e questa produzione però che affonda le radici nella sua in qualche modo terra d'origine, è un disco molto particolare. Questa tromba gli dà questo che è forse l'anello di congiunzione tra le sonorità occidentali e mm-hmm. quelle del Bahrain, rende questo album molto molto interessante da ascoltare e insomma apprezzare. Se volete recuperare, ci sono molte altre cose, come diceva Pinklo, in giro di lei. In particolare, forse se dovete scegliere una cosa, andate a cercare il suo album La Saboteuse del 2017, che è un po' quello che l'ha lanciata al grande pubblico, che insomma ha attirato una certa attenzione e chiaramente le ha permesso anche di fare diverse collaborazioni che citavi prima. Questa è Radio Onda Rossa, noi siamo Likewise, il martedì musicale proseguirà poi insomma con un succedersi, un seguirsi, rincorrersi, acchiapparsi di trasmissioni musicali. Dopo di noi c'è Note Cose Città, sì c'è, penso di sì. Ecco. Poi Semiglia, Musica dal Mondo e poi More Fire, sesto pezzo della scaletta di oggi, loro si chiamano My First Time Much Better. My First Time, Much Better, nuovo singolo per questa band post pop punk che arriva da Bristol, suonano un sacco in giro per l'Europa, ci piace molto insomma il loro piglio e ci piaceva anche mettere questa band perché la parte ritmica, la sezione ritmica, basso e batteria è composta da due musiciste, non succede spessissimo nelle no. band, soprattutto in questo tipo di musica, quindi ci piaceva molto, belle, energetiche, divertenti, vedremo. Esatto, le faremo sapere anche noi, ma le aspettiamo fiduciose a prove più lunghe. Per ora infatti ci sono una manciata di singoli esatto. in giro, ma come diceva Donna si fanno sentire, si fanno notare, tanto che sono arrivate anche alle nostre orecchie, quindi come al solito segnatevi questo nome perché poi di solito più o meno ci prendiamo, quindi funziona sì. Febe, Rings, Drifting. We are. era la musica scialla, come dice Pinklo, della band Phoebe Rings. Il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Drifting ed è, diciamo, lo split dell'altro singolo che diciamo preannuncia l'album di prossima uscita, Aseurai, e il titolo uscirà il prossimo 6 giugno per la Car Park Records. Da dove vengono questi Phoebe Rings? Nuova Zelanda, da Auckland. Oppure? Oppure da, in orbita, non so, oppure dalle stelle, per come no. So. Oppure no, ah, come si chiama? No, non so. Brava, come si chiama Auckland in realtà nel suo nome vero originale? Nome. Tamaki Mukaurau, ah. Sicuramente non si pronuncia così, ma insomma, facciamoci l'abitudine a dire doppi nomi se non dire i nomi originali, perché è molto vero. Importante questa cosa e giustamente ci teniamo. Leader, diciamo, cantante e compositrice di questa band è la pazzissima Crystal Choi, coreana e questa cosa non è che la tastiera volevi dire, tastierista, bravissima Crystal Choi. Voi che non insomma mi vedete, è ma... un personaggio abbastanza interessante della scena appunto neozelandese e coreana, che appunto a volte canta in coreano, molto particolare lei. Infatti il titolo del disco sarà in cioè è una parola coreana che significa intorno a te nella... italiano non è sicuro, no, cioè intorno a te nell'atmosfera. Guarda, io sono distratta dal perché sto giocando. Sto giocando perché dovete sapere che allora hanno un sito molto carino che si chiama bbrings.com, appunto, dove ovviamente presentano le loro cose, la loro musica, le loro notizie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in più hanno una sezione fantastica con un giochino, anzi, con diverse versioni del giochino del gattino, che è una versione di un giochino arcade, insomma, molto classicone, ed è super divertente. Quindi io in realtà sto giocando mentre parlo con voi, quindi andate a scoprirle e andate a cercare anche il giochino. Esatto, quindi giro vagate per il sito, così trovate anche le loro altre produzioni. In realtà c'è un EP omonimo dell'anno scorso, non hanno prodotto ancora così tanta musica, ma direi che comunque con questo disco in uscita, che uscirà il 6 giugno, però potete passare appunto il tempo aspettando il disco, magari giocando e facendo parte quindi della classifica, perché non, sì, sì, ci sono tante persone che giocano, abbiamo visto, anche con punteggi di tutto rispetto. Prossimo pezzo, l'aspettavi loro? Sei contenta, sì, di metterle? Sono contenta. Vai, di metterle, sono contenta che sono tornate. Le tra l'altro in formissima, devo dire. Infatti sì, Catch This Fist, Wet Leg. Yourself when you fall, you should be careful. Do you catch my drift? 'Cause what I really want to know is, can you catch these fits? Yeah. Stand down, wet leg, catch this face. Dopo essersi fatta il mazzo a tarallo a suonare praticamente dappertutto, in lungo e largo, hanno girato il mondo, veramente hanno suonato dappertutto, partite dalla piccola isola di Wight, le nostre due fantastiche Ryan Tisdale e Hester Chambers, diciamo, arrivano alla prova del secondo disco, insomma, una prova importante. Esce per la Domino l'11 luglio prossimo, quindi avremo tempo di sentire altri singoletti. Moisturizer è il titolo che avrà l'album, e insomma quest'album, a differenza del loro primo, è stato scritto in realtà con tutta la band, con cui fuori di suonare in giro per due anni insieme, qualcosa gliela fanno fa, insomma. No, ecco. No, si saranno anche affinate, insomma, un po' le relazioni, anche le idee, magari l'hanno anche pensato insieme proprio. Una cosa divertente che, insomma, succede sempre alle band che comunque esplodono, come è successo a Wet Leg con il loro primo album, con questa, diciamo, sonorità molto catchy che acchiappano subito, che rimangono in testa e che fanno ballare e divertire, come spesso piace anche a noi, è che loro praticamente nelle interviste dicevano: ma state preparando il secondo album? Ma state preparando il secondo album? E loro dicevano: sì sì, abbiamo già fatto tutto. In realtà dice, ce la siamo cantata e suonata, perché non era vero niente. No. Infatti a un certo punto sono riuscite finalmente a fermare da questi giri live, si sono chiuse in una casetta in campagna e hanno deciso di mettersi nella remota cittadina balneare di Southwold, nel Norfolk, dicono. Balneare e Norfolk non possono stare nella stessa frase. Ma loro non ne sanno di mare Mediterraneo, quindi tu più di me dovresti tenerci a questa distinzione. Comunque dice lei che ha avuto una specie di rivelazione, una presa di coscienza personale molto grossa. Pensavo di essere, te lo dico con le parole sue, pensavo di essere eterosessuale da tutta la vita, fino a quando non ho incontrato la persona con cui sto. Ah, e questo ci fa piacere. Devo dire che c'è stata anche una svolta proprio, cioè super, come posso dire, si vede che sul palco, chiaramente questo dipende anche dall'esperienza, il fatto che ne hai calcati tanti, hai aperto anche per band importanti, quindi in qualche modo ti sei fatta le ossa, però ha acquistato proprio una sicurezza, una, diciamo, una nell'amore, autostima ed è anche l'amore. E queste canzoni, dice, parlano di loro. Oh, Turnero. Vabbè, non ho pezzo, dai. Presente, ho trovato molto più interessante e stimolante scrivere canzoni d'amore in cui non desidero un uomo. È un po' diverso. Ah, quindi testi. Come ti capiamo? Esatto, un po'. Benvenuta tra noi, ben trovata. Quindi la segno. Sarà la lista. Sarà la lista giusta. Okay, perfetto. Sono le 19:56. Dall'altra parte del vetro sono arrivate note, cose, città a dirci che alle 20:15 tocca all'ora. Quindi noi ce ne dobbiamo andare. Ma prima di andare, ne ascolteremo sicuramente Oksana Linde con Sara. Thank you. facciamo questa cosa che non facciamo quasi mai, anzi direi mai a Likewise, ma sono le 20 e... giustamente peraltro. Esatto, giustamente, esatto, ma sono le 20.03 e fra un po' dobbiamo lasciare i microfoni a Note Cose Città e dargli anche il tempo di prendere la postazione, quindi questo brano che stavamo ascoltando, che in realtà dura 9 minuti, è stato scritto da Oksana Linde, si trova in un disco che è uscito a febbraio di quest'anno per la Boo Records, che si chiama Travesia, perché al plurale. E la storia di questa artista è molto particolare. Lei è nata nel 48, è una compositrice venezuelana e musicista di musica elettronica, come avete potuto ben capire. È nata a Caracas in Venezuela da genitori però immigrati ucraini lì, e ha imparato a suonare il pianoforte fin da piccola. Ha scritto la maggior parte di questi pezzi che sono contenuti in questi due dischi, che in realtà sono usciti uno l'anno scorso e uno quest'anno, negli anni 80, pressoché non se l'è filato per me nessuno. Ma credo che neanche lei si sia tanto preoccupata. E neanche lei si sia preoccupata di questa cosa qui. A un certo punto nella sua vita si è dovuta anche prendere cura della madre, quindi ha venduto gran parte della sua attrezzatura musicale per poterlo fare. Poi ha ricominciato a comporre più là, di nuovo, con programmi open source come Audacity, santo santissimo subito, che noi qui conosciamo molto bene per cose molto meno nobili, se vogliamo. Sì, perché lei in realtà, diciamo, negli anni 80 aveva comprato delle tastiere, sintetizzatori, sì, anche abbastanza all'avanguardia per l'epoca, e poi a un certo punto le ha dovuti vendere perché aveva bisogno di fare soldi, e quindi poi alla fine ha deciso di buttarsi sulla parte, insomma, un po' più tecnologica, che permette magari con meno soldi di riuscire a fare, esatto, le stesse cose che faceva prima. Le stesse cose che faceva prima stanno quindi uscendo, perché a un certo punto alcuni dei suoi pezzi sono entrati in delle compilation, delle liste, sapete com'è, che c'è tanta gente che cerca comunque sempre musica. E il proprietario dell'etichetta discografica della Boo Records ha alzato le antenne e ha detto: oh, questa non è male. Sì, la Boo Records in realtà è proprio una etichetta, sì, indipendente che sta a Lima in Perù, e si, diciamo, si occupa di musica sperimentale, nuovi suoni. È un'etichetta che diciamo guidata da Luis Alvarado, che va in giro a raccogliere, a cercare appunto anche cose nuove, cose sconosciute e abbastanza sperimentali per proporle in questa versione. E devo dire che è una, diciamo, è un personaggio molto interessante, perché chiaramente la sua musica, come dice anche in un'intervista, in qualche modo si presta per, che ne so, documentari, science fiction, meditazione, eccetera eccetera eccetera, ed è insomma una sorta di musica classica contemporanea, fondamentalmente, almeno lei si autodefinisce diciamo compositrice di questo genere. Ed è molto bello il percorso in realtà di amore per la musica e la composizione, senza necessariamente legarla poi a farne la vita propria. Sì, mi sembra principale. Cioè, non so, mi è venuto subito in mente, in un altro campo artistico, Vivian Maier. Sì, infatti, anche io ho pensato questo. Sì. Quel tipo di approccio molto libero all'arte, in realtà. Completamente libero, e quindi anche il risultato poi molto più interessante, se vogliamo. Anche noi l'abbiamo scoperta, diciamo, con questo lavoro, quindi in realtà approfondiremo la conoscenza, perché appunto in realtà lei si può considerare una sperimentatrice, quindi ci sono anche molte cose che non abbiamo ancora identificato, che non sappiamo ancora della sua storia e della sua produzione, che magari vi riproporremo un po' più avanti. Esatto, quindi vi stiamo per salutare, sono le 20.06, Likewise finisce qui, vi diamo appuntamento alla prossima può darsi, se la Pasquetta, che tanto piove, lo sapete, vero? Tanto, certo, piove, quindi fate, non fate troppi progetti che poi ci restate male, ma l'unico progetto che potete fare, che sicuramente andrà in porto, è il radio abbonamento, quindi andate sul sito della radio, cliccate sopra il banner e dateci una mano, fateci il regalo di compleanno a Radio Onda Rossa, che fa gli anni il mese prossimo. Esatto, noi vi salutiamo. Noi vi salutiamo, per questa sera è tutto. Buona serata in compagnia di Radio Onda Rossa, restate all'ascolto con Note Cose Città, Semiglia, Musica dal Mondo e poi Morfire. A presto, ciao. Ciao. New day, ask me how I'm doing, I say okay, I'm doing okay, doing